7 quasi spaccate, pochi secondi, 20, 21, 7 del mattino in ogni caso. Un buongiorno dalla voce dell'Ariele, pronto come ogni giorno a condurre pane, burro e rock and roll. Mercoledì 12 di settembre, puntata numero 8, sigla! Grazie Spadino. A volte non so come mai riesci a precedermi addirittura. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, eh? C'è feeling. Pane, burro e rock and roll. Una trasmissione che ha feeling. La tua colazione rock. Colazione che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll. E sentirete delle belle anche quest'oggi, da adesso fino alle 9 del mattino. Very good indeed. Right? Se cerchi una radio che fa rockeggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina un saluto all'amico Chuck Bird, che quest'oggi è scappato dagli studi, manco avesse la guardia di finanza alle calcagne, o forse era proprio per quello. Vi ho presentato il mio regista, mi sono presentato come da contratto, come giusto che sia. Devo presentare anche la perla di questo programma, l'orgoglio dei manicomi italiani, il dottor Roberto Fricantoni, direttamente da Bologna, anche quest'oggi non ancora presente negli studi, ma gli concediamo sempre qualche minuto per l'Eurostar che arriva qui alla stazione centrale di Milano, che è abbastanza vicina agli studi di Rock FM, sempre per sistemare Rock FM fisicamente in un posto. E no, cioè Rock FM non è lì nella vostra autoradio, capito? Esiste veramente. Lo so che molti di voi pensano che esistiamo lì dentro la macchina, che dormiamo nella vostra macchina di notte. Invece no, siamo in via Locatelli 1, 20124. Giornata particolarmente buia. Come radio cronaca posso dirvi che il lampione che ho di fronte è ancora acceso. Solitamente lo spegnevano già a quest'ora. Una Milano abbastanza buia, quella che ci accoglie questo mercoledì. O abbiamo sbagliato orario? No, sono le 7. Sono le 5 del mattino. No, sono le 7. Come al solito la formula per servirvi al meglio la colazione è la grande musica di Rock FM, quella con la G maiuscola e la M in grassetto. Ti piace questo nuovo tormentone? Iniziamo il volo di quest'oggi imparando a volare, altrimenti si casca giù, no? Si inizia con i Pink Floyd, Learning to Fly. Buona giornata amici, buona giornata amiche. Siamo qui per voi. Into the distance. Black, stretch to the point of no turning back. Flight of fancy on a windswept field. Standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Questa chitarrina dei Pink Floyd potrebbe diventare il nuovo tormentone onomatopeutico della trasmissione. Se fino a oggi abbiamo utilizzato Tracu Tracu, ispirandoci al suono della batteria, volendo pensare a uno stesso tormentone onomatopeutico ma riferito alla chitarra, sicuramente potrebbe essere Squawa! Squawa! No? Va bene, vedremo. Sicuramente siamo l'unica trasmissione al mondo a tentare di avere tormentoni onomatopeutici, dimostrando anche di avere in qualche modo studiato. Spadino, l'utilizzo della lingua italiana spesso e volentieri in queste due ore mattutine viene espresso. Va bene. Puntata numero 8, nella quale andrò a ricordarvi molto volentieri le nostre coordinate. Tra l'altro, a pochi minuti dall'inizio della trasmissione, constato come quest'oggi già giacevano degli SMS di gente che si era svegliata ancora prima, molto probabilmente. Fortunati voi! Pensate a quei ragazzi senza futuro, a quella gente senza speranza che ha puntato la sveglia quest'oggi, che ne so, alle 9 o alle 9:30. Si sono persi una Learning to Fly dei Pink Floyd, così di primo risveglio, che è a morte sua, capito? Metti che uno oggi si sveglia alle 11 del mattino, no? Maledetto, tra l'altro. 335-100-7777 non è il personale di Spadino, ma è il numero del nostro SMS. Appena voi mandate il messaggio, mi si catapulta su uno schermo piatto, su un bellissimo schermo piatto posizionato qui sul banchetto di Rock FM, dove posso vedere i vostri messaggi. Già saluto Gian, già saluto Betta che chiede aiuto, ovviamente soprattutto quando le radioascoltatrici chiedono un aiuto qui a Pane, Burro, Rock and Roll, siamo prodighi, ti piaceva? Betta che chiede: ha bisogno di Mr. Trombetta e del suo suono propiziatorio per superare lo scritto del mio ultimo esame universitario. E se lo passo, mi servirà altrettanto per superare poi l'orale. Ah, Betta, guarda. Per quanto riguarda gli orari, Mr. Trombetta, proprio stai precisa, come si suol dire. Va bene, abbiamo strombazzato Betta. Salutiamo subito anche Piero, che mi manda messaggi d'amore per Marisa, però dai ragazzi, anche basta questa cosa. Cioè, ho capito che vi volete bene, vi amate, è fenomenale, galattico, ma tipo ditevelo tra di voi, non fateci sentire così un po' provincialotti, anche se in parte amiamo essere provincialotti. Vabbè, ricordo anche la casella di posta elettronica, da quando abbiamo promozionato il fatto che Pane, Burro, Rock and Roll lo si può ascoltare poi anche negli altri momenti della giornata grazie a RadioRockFM.com. In molti scrivono, peccato che quando arrivo le mail che sono arrivate sono inframmezzate da centinaia di spam, quindi dovete lasciarmi quel quarto d'ora, 20 minuti per mettere a posto la casella di posta elettronica, che comunque è Ariel@RadioRockFM.com. Simple Minds, mi raccomando, non dimenticatevi di me, è il titolo della canzone. Don't you forget about me. Senti che voce da prima mattina, no? Oh. And out, I'm love strange. Rock and Roll, questo è il titolo della nostra trasmissione mattutina con il nostro regista Spadino, l'inconfondibile voce dell'Ariele, ma soprattutto Roberto Fricantoni, buona giornata, perla del nostro mattino. Grazie, la perla e si spera non pirla. No, perla, questa, perla. Questa mattina più che confermo. Mai in firma, in forma, in forma. Vi informo amici che abbiamo il... solito, sì. Ma preziosissimo, sì. Ed indispensabile almanacco. Non potrei veramente farne a meno anche in questo mercoledì 12 di settembre. Da dove iniziamo di bello? Iniziamo dai complimenti, perché ho dimenticato di sottolineare, sì. La perfezione della, sì. Sigla Pane, Burro e Rock and Roll a quest'ora del mattino è perfetta. Beh, l'ha inventato lei. Ma no, anche cosa lei c'entra? Insieme, sì. l'abbiamo inventato tutti noi. Era un momento di autocelebrazione. Di autocelebrazione così. Oggi a quasi mercoledì 12 85 puntate. Mi piace, bravo Frick. Oggi mercoledì 12 settembre apriamo la trasmissione autoincensandoci. Oh, è un'ottima idea, Frick. Facciamo l'almanacco o le do 12 pillole? Facciamo l'almanacco subito. E no. Le spiego, volevo essere all'altezza della prima grande vicenda che ci ricorda l'almanacco. Ovvero? Perché il 12 settembre del 490, si badi bene, avanti Cristo, gli ateniesi sconfissero i persiani nella celebre battaglia di Maratona. La grande storia che passa sulle frequenze di Rock FM, che si sappia in giro, spargete la voce. Qui si fa cultura. Qui si fa più che cultura, si fa storia, si fa geografia, si fa poesia, tutto quanto. Facciamo all'interno sfoggio del di rock. Cultura. Si ricorda perché la battaglia di Maratona diede poi il nome anche alla corsa podistica, e ripeto podistica, della maratona. Ma perché ci fu il grande protagonista, questo ateniese che si mise a correre e portò la notizia in patria, cioè si fece i suoi credo 40 chilometri di corsa, esatto, e una volta arrivata ad Atene portò la buona novella e stramazzò per terra. Che storia incredibile. Che uomini. Come è incredibile la prossima storia che vi raccontiamo. Era il 12 settembre del 1609 quando lo sconosciuto Henry Hudson, un esploratore, l'ho detto, l'ha detto perfettamente, Hudson. Cosa scoprì? Scoprì l'omonimo fiume dal suo nome in poi, insomma, scoprì il fiume che lui stesso, in un momento forse di egotismo particolare, o forse in quel momento aveva un vuoto mentale, come lo chiamo come questo lo chiamo? Fiume? Hudson. Quasi quasi lo chiamo come il mio cognome. Esatto. Ah, l'ho scoperto io in piacere fondo. Piacere Hudson. Piacere Hudson. Hudson. E... Hudson, e si sono dati metaforicamente la mano, il fiume e lo scopritore Henry Hudson. Ma per esempio anche il Po è stato scoperto da Franco Po. Po, o no? Il Sesia. Sì, credo di sì. Cioè, tutti i grandi fiumi sono, sì, stati. Sì, l'Adda, da Silvia Carlo Adda. D'Adda. Ah, da no, Carlo Adda, però no, c'era credevo la D. Silvia Adda. Io proseguirei con un'altra notizia di quelle che la fanno sbarellare. Era il 1933 e il signor Leo Szilard, e le ho tolto l'impaccio di leggerlo, mentre attende ad un semaforo rosso di Southampton Road a Bloomsbury. Ci riprovo, mi scusi. Al semaforo rosso di Southampton Road a Bloomsbury, Londra. Che pensa quest'uomo al semaforo rosso? Lo so, questo genio. Magari si stava scaccolando. Tra una scaccolata e l'altra, l'idea di reazione nucleare a catena. Questo è fondamentale, ragazzi. Oggi è la ricorrenza, è il 12 settembre. Tu, amico, lì fermo al semaforo rosso. Va bene scaccolarti. Vediamo di pensare a qualcosa di nucleare, però. Vediamo di pensare a qualcosa di estremamente intelligente, di brevettarlo affinché l'umanità lei. Abbia un balzo in avanti quantico, gigantesco. Se lo immagina, perché le è venuto l'idea e poi avrà pensato, dove lo scrivo? Esatto. Perché in macchina lì. È vero, è vero, è vero. Avrà chiesto un foglietto, avrà tirato magari giù il finestrino. Sì, sì, magari... Scusi, ha un pezzo di carta. Magari l'ha scritto... Avrei inventato la reazione a catena. Esatto, magari se l'è puntato sulla promemoria per la spesa, magari se l'è appuntato lì. Chi può se dirlo? Se lo appunti insieme a me. Esatto. Oggi, 12 di settembre, vediamo di farci venire un'idea geniale. Un'idea geniale, assolutamente sì. Bisogna seguire l'esempio del grande inventore Leo Szilard. Yeah. Revolution, cantavano i Cult, c'è una rivoluzione. Beh, sicuramente c'è una gran rivoluzione nell'etere da quando è cominciata Mani Burro Rock and Roll, puntata numero 8 dedicata all'autoincensamento, l'abbiamo deciso ufficialmente, quindi vediamo di tenere alta la bandiera dell'autocelebrazione, autocelebrazione nostra ma anche vostra, anche voi. Dedichiamo questa giornata ad autocelebrarvi, ognuno di voi in quello che sta facendo. A proposito, cosa state facendo? A quale gruppo d'ascolto appartenete? Hai visto, Spadino? Come mi aggancio al futile, così, per dar senso a questa trasmissione. Oggi vi sento via SMS particolarmente teneri, gentili, prodighi di complimenti, e sfrutterei per la seconda volta prodighi in questa diretta mattutina. Fa piacere, fa molto piacere. C'è un'amica che è rimasta colpita da un mio intervento precedente nel quale ho detto in maniera molto romantica siamo qui per voi, cosa che tra l'altro è fottutamente vera. Martina si firma, il tuo siamo qui per voi stamattina è stato di una dolcezza incredibile, soprattutto visto che mi ero svegliata da 4 minuti. Meno male che almeno tu hai queste attenzioni. Guarda Martina gioca probabilmente a mio favore che sono sveglio non da 4 minuti ma da qualche oretta, altrimenti guarda, avessi sentito cosa ho sentenziato questa mattina quando ho aperto gli occhi, sicuramente non si può dire per radio, che oggi è stato un risveglio duro ragazzi, domani sarà ancora peggio, vabbè, ma questi sono fattacci miei. Bryan Adams. E stai romantico. We'll be right back.